fate finta di volervi bene. Ma guarda qua se è venuta. A Faraona. Sole, mezzo ombra, non mi piace, vedo così. Capito? Capito. Hola. Grazie. Provo a vedere. Poi, gli italiani.